Allora, ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla conduzione tecnica, Simone. Oni. Ed è un venerdì fantastico solo per il fatto che sia il 26. Vabbè, ciao. Buonasera. Buonasera da Piazza Alta. Volevo iniziare buonasera da Radio F. Enzo ha già detto qualcosa di incomprensibile. 26 febbraio, sono le 22.01, questa è Piazza Alta, anche stasera con voi, anche stasera Radio F. Con noi, mi piace dire, pensare più che altro, che parte il weekend di Radio F. È bellissima questa cosa, infatti il fine settimana, il weekend di Radio F è ricchissimo. Tutta la settimana ci sono grandissimi un palinsesto serratissimo, direi. Esatto. Ma il fine settimana ci sono veramente degli appuntamenti impegnativi. Altissimi. Io vorrei che voi poteste vedere anche la mise di Marcello, che ha il microfono, la felpa e la cuffia dello stesso colore, identico. Ma questo vi dovrebbe dire, ma poi lo potrebbe anche vedere, ma infatti adesso posterò una proprio foto nelle immagini, che nulla è lasciato al caso a Piazza Alta. Stiamo per iniziare. Ma da quando, scusa? Da 1976. A fra pochissimo una serata, una trasmissione uggiosa. Mi piaceva il disannunciarla così. Mi piaceva disannunciarla. E ne è venuto un bel po'. Era nel 1969, dopo 7 anni sarebbe nata la Radio F, perché la Radio F è nata nel 1976. E questa è una canzone che noi tutti abbiamo amato. Simpatici amici. Cantato e soprattutto storpiato. Storpiato. She's Got It era il... Yeah baby. She's Got It. Simo, stasera avremo un programma... Ma perché ciao, siamo Simone. Qui? Ciao a tutti. Abbiamo un programma frizzante dal punto di vista della musica. Le bollicine. Che Cosa dire? Che cosa hai scelto? Ma questa sera un po' una serata danzericcia. Danzericcia. Allora, parlatevi in questo prediscoteca. Io avrei preferito un panzerotto, però vabbè, visto che siamo in tarda orario. Allora, questa è Piazza Alta, adesso faccio un po' il serio e cerco anche di parlare bene. Come ascoltarci sugli 89.2 della modulazione di frequenza? Obvious. Oppure tecnologicamente su www.radiof.it in streaming. Chiaro, perché l'onda da noi è anomala sempre. Esatto. Oppure scaricando la nostra app. Sia per Apple che per Android. Eccoci. Ma da quest'anno potete dirci che cosa ne pensate di noi? Ci potete proprio tormentare, perché abbiamo innumerevoli modi per stare in contatto con voi. Per esempio, il più grande, classico, banale. Il profilo Facebook. Oppure il Twitter. Ma. Il 392-4900-800, ridillo te, va Marcio. 392-4900-800. Dove potete scriverci in diretta cosa ne pensate di me. No, ecco, non siamo... Tra poco non saremo più in fascia protetta, quindi evitate frasi maleducate. Se dovete descrivere Enzo o chiedergli qualcosa, non è il caso. Ma stasera dobbiamo parlare di una cosa importantissima che ha segnato la storia della zona da cui trasmettiamo, senza la quale non saremmo qui. È inutile negarcelo, via Marci, è inutile che siamo negarci. È un po' come il babbo e la mamma. Esatto, e in una giornata come questa, tra l'altro, ancora di più. E parleremo, per esempio, di una cosa che a noi piace da morire. No, un'altra volta. Attenzione, il sentiero della bonifica, da un'idea illuminata del Fosso Ombroni, una strada per unire popoli e culture, da Chiusi ad Arezzo, un percorso storico alla ricerca delle nostre radici, di come eravamo, di come siamo e di come saremo, oltre 60 chilometri che raccontano come e perché oggi siamo quello che siamo, questa sera a Piazza Alta. Novità ai Caravan Palace con Comics. Straordinari, amici simpaticissimi. Stasera ci sono dei momenti un po' così, un po' così. Sono francesi, E questo appunto è il loro disco omonimo di fine 2015. Ed eccolo qua, che il nostro Simone ve l'ha proposto e propinato. Bene, dopo Disco Ring presentato da Enzo e dopo Mixer che ci interrompe tutte le volte, finalmente possiamo arrivare a presentare il nostro ospite, ma soprattutto a dire di che cosa parliamo questa sera. Abbiamo il piacere e veramente la novità assoluta di questa sera ospitiamo Luca Posani. Buonasera Luca. Dottor Luca Posani. Beh, insomma, direi. Architetto Luca Posani, nonché presidente di Prologo, esatto, e mille altre cariche. Beh, quella baffa. Che però è, diciamo, avvolgente, è una carica che ti assorbe molto, vero? È una carica... Sì, mi tocca fare di tutto. È una carica che ti dà la carica, però in quanto depositario dello scibile umano, perché il presidente di una Prologo locale deve avere lo scibile umano, stasera vorremmo parlare con te di una cosa che tutti ci accomuna. Sì, come dicevo prima, in realtà senza questa cosa non saremmo probabilmente qui. O sicuramente non saremmo così, tra virgolette, asciutti. Che poi in un weekend così bagnato ci sta la anche sua bene. Differenza. Esatto. Ovvero parleremo con Luca del sentiero della bonifica, della storia del sentiero, della bonifica, del sentiero e quant'altro. Insomma, tutto quello che riguarda questa valle, la Val di Chiana, che da Arezzo a Chiusi a tutti ci accoglie e che è vivibile, che è grazie a quello... Diciamo che è lì da sempre, ma non nella morfologia, nella situazione attuale. Perché Luca, da dove iniziamo? Che succede a un certo punto in questa valle? Dopo i dinosauri, alla fine del Giurassico. No, facciamo tanto per dare una idea, collocazione, una collocazione storica. No, tutto succede dopo il periodo romano. Inizia con il Medioevo, con il tardo romano, inizi del Medioevo, a impaludarsi la nostra valle. Perché prima non era una palude. Non era una palude. Uno pensa alle volte, come non è? Ti giri un attimo, una palude. Inizia il paludarsi, ci sarebbe anche una spiegazione scientifica, presumo. Sì, no, che il fatto che non c'era una palude è assodato perché il percorso della Cassia, sì, che attraversava la nostra valle, passava lungo il tragitto della palude, quella che poi è diventata palude. Quindi è evidente che non ci fosse. No. I romani erano famosi per i lavori pubblici, insomma, all'epoca, voglio dire, la Cassia e via, strade Aurelia, principali. Eccetera. Diciamo che molto probabilmente i romani erano anche più attenti alla manutenzione. Probabilmente sì, probabilmente sì. Quindi nel tardo Medioevo inizia a impaludarsi. Inizia a impaludarsi la valle. E diventa un'intera palude. E rimane tale fino a quando? All'incirca? Ora più, ora meno? No, nel 1551, una cosa del 25, anzi. L'ho buttata là, ma... Provavi a dire. Nel 1525... Era un venerdì, mi ricordo. Era un venerdì. Non lo ricordo bene. Era anche un venerdì 17. No, assolutamente. Nel 1525 si iniziò a pensare a bonificare la valle, cioè non è che si pensò noi foianesi, ma si pensarono i fiorentini, ecco, visto che Foiano era diventato un contado fiorentino dopo la guerra di Scannagall. E quindi i Medici da sempre abbiamo avuto questa vocazione agricola, diciamo così. Sì, sì, sì. Beh, sì. Anche perché industriale nel 1500, sì. La vedo dura. Però, voglio dire, era il granaio, mi risulta che fosse il granaio, cioè che la Val di Chiana fosse considerata come un granaio del Granducato. Sì. Sì, comunque Foiano non se la passava male nemmeno durante il periodo della palude. Anche perché era un paese ricco. Mm-hmm. Nella metà del 400 Foiano si ampliò, costruì il nuovo cerchio di mura, divenne un paese importante, era ricco, è sempre stato ricco. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, ti prego fallo se veramente sbaglio, una delle testimonianze del fatto che Foiano fosse un paese ricco è che le mura sono fatte con mattoni rossi. Sì, infatti, perché il cerchio di mura di Foiano è interamente il laterizio, e il laterizio era un materiale ricco. Ho detto mattoni, perdona. Sì, sì, no, va bene, ma era un materiale che veniva prodotto, non era di cava, le pietre. Aveva un costo, insomma. Aveva un costo, e Foiano, fra l'altro, è sempre stato ricordato come il paese rosso. E poi è continuato ad essere, ma questo non è una cosa che ci interessa. Io a questo punto, se mi scusate, sarei già soddisfatto. Avete dato già un'interpretazione, una svolta alla mia concezione del paese. Non avevo questa, ma avete veramente stupito. Sono proprio curioso di vedere come va a finire. No, per parte le battute, che non sono battute. Assolutamente. Quindi il paese era ricco, non sentiva il bisogno di bonificare la palude, almeno dal punto di vista economico. No, anche perché Foiano viveva, ormai la palude era una caratteristica del paese. I foianesi avevano imparato a sfruttare anche la bonifica e la palude, scusate. Sì. Infatti, intorno alla palude si trovavano le canne. Con le canne venivano vendute perché si facevano i graticci per l'uva. Inoltre la palude era ricca di pesce, quindi, diciamo, perciò c'era la pesca, e più Foiano aveva un porto, perché chiaramente gli altri paesi a Foiano si dovevano imbarcare e pagavano il pedaggio, insomma. Io guarda, vedi, a volte pensi, no? Sì, sì. Cioè, stasera serata leggera, cioè, c'è una palude da fastidio, invece no. Lasciateci la nostra palude. Però, e questa cosa è bellissima, rimaniamo qui a questo punto, fermiamoci sul bordo della palude, al porto. Ovviamente stiamo parlando principalmente di Foiano, perché era comunque un po' al centro, e però appunto volevo giusto dire che comunque la palude accomunava anche altri comuni della zona, certo, tipo Castiglioni e anche Cortona, perché alla fine era ai piedi anche di Cortona, e da Chiusi in su era tutta una palude, soprattutto il percorso che dalla Chiana romana fino ad Arezzo, in pratica era una palude. Allora, abbiamo fatto un po', diciamo, la fotografia, inquadramento storico. A quel momento lì, del 1400-1500, c'era questa palude, si stava bene con l'acqua fino alle caviglie, ma poi succede una cosa, ma questo lo faremo presente tra un po'. Buon ascolto dalle F frequenze. anche del Gran Ducato di Toscana. E allora perché non andare a cercare una band fiorentina, i Celluloid Jam con Fire, eh? Tipico nome, cioè, proprio da dialetto, carpiata, eh? Allora, ma stavamo parlando con Luca Posani del Sentiero della Bonifica e della storia dei territori che lo contraddistinguono, e abbiamo detto che a un certo punto questo territorio viene bonificato. Esatto, ma non si stava male, però, si stava discretamente, si stava però male. A un certo punto nasce un po' il bisogno di cambiare. Ma però stiamo facendo una riflessione, che abbiamo fatto anche uno studio storico su questa, sì, certo, su questa situazione, e le nostre zone, anche prima di Piazza Alta come sì, programma radiofonico, sono assurde alla fama letteraria, ma mondiale direi, poeti di insigne lignaggio, sommi direi, sommi. Quanti erano, scusa, se li sommi, se era uno non lo puoi sommare, era uno ma valeva per 100.000, okay. Stavamo dicendo appunto, e Foiano e tutti gli altri paesi della Val di Chiana erano contenti o comunque approfittavano della bonifica, però in realtà qualcuno ne aveva parlato qualche anno prima o comunque durante quegli anni, e non è che la citò in modo così benevolo. Sto parlando di Dante Alighieri, che nel 29° canto dell'Inferno così racconta: qual odor foras degli spedali di Val di Chiana tra luglio e settembre, e di Maremma e di Sardegna i mali fossero in una fossa tutti in sembre, tal era quivi e tal puzzo ne usciva, qual suole uscir dalle marcite membra. Ora, stendendo un velo pietoso sulla dizione, chiaramente. No, sto scherzando, grandissimo Marcello, voglio dire, assurge la Val di Chiana comunque alla storia in un certo modo. In eterno. In un male. Male. Ma, però, ma Luca adesso ci dirà che poi arrivano i Granduchi di Toscana ed ecco che cosa succede. Ma a questo punto, anche se non ce lo dice. Insomma, ci fu una presa d'atto. No, il riferimento a Dante, diciamo che è vero, la palude... Beh, di sua natura, no? È maleodorante. Era, cioè, maleodorante, e anche se foianesi alla fine saranno abituati, nel 1525, la data che si è ricordata, certo, i foianesi cedono i terreni paludosi ai Medici, e i Medici si impegnano a bonificarla. Potremmo dire che a quel punto non volevano più la puzza sotto il naso. No. Mi distraggo un attimo e subito... Non ti distrarre. E che cosa succede quindi? E che cosa succede? A chi danno l'incarico di vedere un po'... Ma come poter fare? Un primissimo incarico prima di passare a l'esecutore effettivo, se fu uno studio fatto proprio da Leonardo da Vinci. Cioè, abbiamo parlato stasera di Dante, signori, e Leonardo, se vogliamo spegnere, andare via tutti. Pare che Newton abbia messo la sua, ma un po' di tempo dopo Einstein ci ha fatto relativamente un lavoro. E quindi i primi disegni, tant'è che esiste un disegno, un disegno famosissimo di Leonardo da Vinci, e poi fu l'incarico non fu assegnato a Leonardo da Vinci ma fu dato a Alfonso Sombroni, che nome, vedi, alle nomen volte anche a quell'epoca le lobby come potrebbe ma non credo che Leonardo avesse problemi di lobby. E quindi arriva questo Alfonso Sombroni, che già nel nome aveva un destino, esatto, un altro d'estate, insomma, Sombroni. E cominciò a studiare la bonifica. Ora cerco di essere serio, ma non mi riuscirà. In realtà, per gli amici che sanno di che cosa parliamo, non c'è tanto da spiegare, ma se dovesse ascoltarci qualcuno che non conosce la zona, è una zona vastissima, siamo nel 1500, cioè non è che prendiamo due ruspe e iniziamo a scavare, no. Qua ci vuole gente geniale. Gente geniale, se vuole parecchia manodopera. E parecchia manodopera. E prima di tutto cominciarono a pensare a quale metodo serviva per bonificare la Val di Chiana, e ne furono studiati due. Uno, che era sicuramente più costoso, perché era quello di fare una bonifica più sbrigativa, diciamo così, più immediata, creando dei canali e facendo defluire l'acqua. Dove andava a andare? O altrimenti utilizzare il sistema delle colmate. era un sistema più lento. Questa è una cosa bellissima, Luca. Anche lo sguardo di Marcello. No, poi dirò perché a me questa cosa mi affascina molto. In che cosa consisteva? In che cosa consiste questo sistema delle colmate? Il sistema delle colmate è praticamente una sorta, diciamo, di vasca di decantazione, dove l'acqua rimane stagnante fino a un certo punto, i sedimenti si depositano e il terreno si alza e le acque defluiscono. E dove, vedi Enzo, dov'è il genio? Perché mi affascina questa cosa? Perché utilizzi la natura per modificare la natura stessa. Questa è poesia. Ecco. No, oltre che ingegno, dico, è poesia. E poi l'altra cosa che a me affascina è che, siccome nelle nostre zone le colmate ci sono sempre, tuttora, sono sempre attive, vuol dire che ancora questo processo, questo lavoro, quest'idea, questo progetto è work in progress. Non siamo arrivati al termine. Perché infatti nel momento in cui le colmate non serviranno più, sarà finito il lavoro di riorganizzazione, di ristrutturazione della Val di Chiana. Dico bene, Luca? Benissimo. Guarda, io ci spero che non finisca mai. Guarda, che cosa? Questo lavoro. Probabilmente noi non la vedremo finire, però. Anche perché è affascinante comunque. Le colmate in piena sono comunque uno spettacolo affascinante. Sì, a parte che comunque penso che sarà. Almeno un paio dovranno rimanere, insomma, per cercare di... fisiologico per poter... Sì, sì, però diciamo che ancora questo processo non è finito e beato chi lo vedrà finire, perché finirà fra qualche anno. Io direi... Volevi fare un'altra domanda? In questo momento di poesia direi che potremmo anche andare... Fermiamoci alle colmate e poi continuiamo, siamo ancora negli sì, anni... Sì, perché... Siamo appena all'inizio. La poesia continua, ci sono tanti altri... concetti, pensieri da poter sviluppare. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, hit that song right. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Loving Spoonful, Summer in the City. Pensa che l'etichetta a te interessa sicuramente era la Kama Sutra, ed sì, era il 1966. Infatti ho sempre problemi, ho paura di fare infeltrine gli indumenti, quindi guardo l'etichetta. Allora, ricordiamo che potete mandarci i vostri SMS o WhatsApp al 392 349-00800. Ma io vorrei ringraziare uno per uno anche tutti i 500. Bravissimo! E oltre, amici che hanno cliccato mi piace sulla pagina di Piazzalta. Abbiamo superato i 500 e adesso la nostra strada comincia per i 1000. Mille! Ma a proposito di strade, ecco, a proposito di strade, di ponti e di cose che uniscono popoli, come diceva Mixer, a un certo punto si comincia a costruire. No, stiamo parlando di bonifica della Val di Chiana. A un certo punto si inizia veramente a lavorare. E che cosa si fa? Parliamo con Luca Posani, che è un noto esperto. C'era lui all'epoca. sì, ormai. Piccolo, ci racconta di... Avevo pochi anni. Diciamo, quali sono i passaggi successivi all'inizio dello studio e del prendere in considerazione la bonifica? Dopo, come si è detto, dopo avere capito quale metodo utilizzare, si cominciò a creare il canale, del canale maestro. Ma il canale maestro della Chiana, che tanto ci ha dato. E più ci ha portato via. Ci ha portato via. E più si cominciò a invertire il percorso della Chiana. Questa è una cosa che te la dici così con una semplicità, ma è un lavoro immane. È un lavoro immane anche perché la Chiana aveva già una pendenza scarsa dall'inizio e i sedimenti che servivano con la colmata serviva proprio per alzare il letto della Chiana e in questo caso invertirlo verso l'Arno, esatto, verso la chiusa dei monaci. Che era l'Arezzo. Che sì, alle porte di Arezzo. Sì, nei pressi di Arezzo. E serviva proprio per cercare di controllare le acque della Chiana che si introducevano nell'Arno. Ora ti faccio una domanda che magari a cui non sai rispondere, ma sicuramente sì. Ma è una curiosità ascoltandoti, ma l'Arno... con un nuovo affluente, bravo, grazie, così importante, ne ha risentito in qualche modo oppure era talmente più grande il fiume? No, l'ha risentito anche perché la chiusa dei monaci, quella che in pratica regola le acque della Chiana e degli altri affluenti, insomma era importante per questo, perché se l'acqua arrivasse tutta insieme, senza controllo, senza la chiusa, l'Arno strariperebbe e succederebbe l'alluvione come è successo qualche volta. Quindi la chiusa è proprio, diciamo, quel rubinetto con cui potevano controllare l'afflusso delle il deflusso delle acque. Insomma, apri, chiudi la chiusa. Incredibile. E quindi a questo punto abbiamo invertito il flusso della Chiana. E l'acqua inizia a defluire, quindi l'acqua inizia a defluire lentamente, questo letto si alza, il fiume comincia a scorrere un pochino più velocemente e le acque cominciano ad andare via. Quanto si è voluto su per giù? Quanti anni, decenni? Io non ho idea. Si parla dal 1525 fino al 1800. Quindi voglio dire, con calma. Io non è che voglio fare una cosa che voglio vedere. Infatti lui ha detto una cosa giusta. Lentamente si alza il letto, come tutte le mattine. Tutto succede a noi. volevo fare una domanda intelligente, ma con le tue profonde battute. Sono qui un po' per questo, Comunque già, insomma, nel 1600 già un po' di terreni erano stati liberati dalla palude, tanti che diventano pascoli per il bestiame, e in cambio del pascolo chi pascolava, insomma, con gli animali avrebbe aiutato alla manutenzione della pulitura del canale maestro. Ecco, ma per esempio, altra domanda mi viene così ascoltandoti, questi campi che vengono liberati dalle acque, immagino che siano, dal punto di vista proprio della coltivazione, difficili da coltivare inizialmente, cioè una volta asciutta l'acqua, ma rimangono comunque melmosi per qualche anno, non ho idea, nel senso non diventa subito appunto terreno agricolo, lavorabile. Ma insomma il terreno appena asciugato, insomma, fra l'altro è anche molto più ricco degli altri, perché giustamente ha assorbito più humus, insomma, e diventa più fertile. una Val di Chiana è un terreno fertile, insomma, è tuttora ricco di è ricco, insomma, per l'agricoltura. Tra l'altro, io continuo a dire cose così che sì. Ho sentito dire nei, no, ma è negli anni. Bellissima sta cosa. Stai quasi mettendo in mostra tutta la cultura. No, è tutta roba sentita mentre facevo delle passeggiate sul sentiero, di cui poi parleremo. Si parla del fatto che la Val di Chiana sia anche un territorio non sismico, proprio perché le eventuali scosse vengono assorbite da un territorio più morbido, io dico. Sì, perché argilloso. Argilloso, insomma. Quindi. Renoso e argilloso, insomma. Hai visto? La Val di Chiana, anche se poi intorno, insomma, ci sono tutti i comuni più sismici, sì. Tipo Cortona, Castiglione, Arezzo. Ma noi perché non ci vogliamo far mancare niente. E però, diciamo, passa il tempo e arriviamo a un certo punto dove, diciamo, quest'opera comincia a prendere veramente, a dare i frutti, i risultati sperati. Quindi dicevi che la Val di Chiana comincia ad essere una zona coltivabile e che la trasforma nell'operosa Val di Chiana. Siamo circa nel 1800? Sì, ma però molto prima bisogna parlare. Che la Val di Chiana, i medici non è che si portarono tanto bene con i foglianesi. Diciamole le cose. Non vorrei aprire la polemica, però ecco, se c'è qualcosa qui a attaccarsi è il momento di farlo. Perché il patto dei medici con la comunità foglianese era quella che le terre bonificate sarebbero andate interamente al comune di Fogliano, la gestione dei terreni. La palude, la bonifica costava molti soldi, i medici a un certo punto si stufarono di elargire soldi e cedettero tutto all'ordine di Santo Stefano, che ne prese poi la gestione. Prendendo la gestione, chiaramente non è che la ripassò al comune di Fogliano. E lì furono introdotti, dimmi se sono fuori dalla realtà, i livelli, i famosi livelli, che era praticamente una rendita perpetua che il proprietario o chi coltivava i terreni doveva pagare alla Chiesa o all'Ordine di Santo Stefano. All'Ordine di Santo Stefano. Però, insomma, alla fine l'Ordine, insieme a Medici, oltre che alla bonifica, crearono tutto questo sistema agricolo e di mezzadria, insomma, costruirono le famose leopoldine, insomma, si creò quello che è il paesaggio che vediamo oggi. È poco, voglio dire, bella leopoldina è nostra, arrivi a Orte, non ne trovi una, subito dopo inizi a vedere un po' di leopoldine. Questo l'ho visto in autostrada, io direi che è bello, vedi, tutto è bello. Tra l'altro sta piovendo probabilmente fuori e non succede niente perché c'è gente che si è data da fare. Ladies and gentlemen, we have the Honey Drippers in the house tonight. And they just got back from Washington DC. I think they got something they want to say. 22:43, Radio F, Piazza Alta, stiamo parlando della bonifica della Val di Chiana, del sentiero della Val di Chiana, di cui andremo a parlare a breve, insomma di tutto quella che è la storia del nostro territorio da Arezzo a Chiusi, e lo facciamo con Luca Posani, con l'eminenza, architetto, presidente della Pro Loco Foianese, insomma un sacco di cose, poi c'è anche Simone che spippola su quel mixer. Sì, ogni tanto mette quattro note in fila. Abbiamo anche delle gentili presenze in questo studio. Che salutiamo calorosamente. Ciao Laura. Direi anche un abbraccio. Buonasera. Dopo. Hai visto? Parla anche. No, ma perché a volte le persone sono timide quando vengono in studio. Ma abbiamo fatto un piccolo accenno, Luca, a una delle costruzioni che ci identifica nel mondo. Esatto, la Leopoldina. La Leopoldina, sì. Parlaci, fai te. Che particolarità ha questa? Ecco, se qualcuno non l'avesse mai vista, descrivicela un attimo semplicemente. Le Leopoldine tipicamente sono a pianta quadrata. Ok, quindi si parla di un'abitazione a pianta quadrata. A pianta quadrata, e la caratteristica della Leopoldina è la... la piccionaia. La piccionaia, sì. Dove venivano tenuti i piccioni viaggiatori, i piccioni quelli da mangiare. Si parla comunque sempre di abitazioni di un grosso livello, metratura. Sì, sì, erano molto grandi, tra l'altro nella parte bassa trovavamo le stalle, nella parte alta c'era l'abitazione che solitamente non era abitata da una sola famiglia, ma anche da più famiglie. Leopoldina perché? Perché veniva da Leopoldo. Da fu Leopoldo. Lui che la ideò o lui richiese che no, venisse? Fu costruita, ideata e evoluta da Leopoldo, ma sicuramente sarà stata studiata da qualche architetto, insomma. Però gli è venuta bene, devo dire, perché identifica il nostro territorio in modo eccezionale. E poi la genialità di avere gli animali sotto e gli animali sopra. Però i volatili certo. Al piano di sopra. Qui è stata la genialità, perché se avessero fatto la stalla sopra, esatto. No, ma hai capito, hai colto il senso profondo della mia osservazione. E tra l'altro volevo dire che le Leopoldine sono in fase, cioè praticamente sono state quasi tutte ristrutturate, sono veramente poche quelle che ancora sono da ristrutturare, e stanno diventando delle bellissime ville, esatto, o agriturismi, esatto, che ci identificano un po' in tutto il mondo. Tornando a parlare, mi guarda Marcello, sempre come dire... Abbacinato. Tornando a parlare appunto della bonifica, diciamo che siamo arrivati praticamente ai giorni nostri, perché ci dicevi, Luca, che dopo il 1800 poco di veramente importante accade. Sì, in pratica continua il processo della bonifica con le colmate. Queste colmate però... che si pienano, queste colmate, scusami. Però comunque la terra è già tutta bonificata, i campi sono coltivabili, ci sono i pascoli, ci sono le leopoldine. Abbiamo il presepe. Viviamo in un posto fantastico. Ecco, allora che succede? A un certo punto questa bonifica, questo territorio della bonifica, appunto attraversato dal canale Maestro della Chiana, qualcuno gli viene in mente di sfruttarlo ancora meglio. Come? Ma negli ultimi anni si è pensato di farlo diventare quello che era l'argine del canale Maestro, un percorso ciclabile o pedonale. E da dove va e dove arriva? Parte da Chiusi e arriva fino ad Arezzo. Quindi se mi permetti, Enzo, questa ti prego, il mio modo di fare poesia è una cosa bellissima, perché partito come progetto per sanificare una zona, un vasto territorio, ci ritroviamo oggi a parlare di un sentiero che unifica, che unisce quei ponti di cui tutti parlano, dei popoli che vanno da Arezzo a Chiusi, passando. Gli Etruschi, se proprio vogliamo. No. Non è detto che non abbiano avuto un'incidenza. Influenza, bravo, sì. Bravo. E quindi proprio fisicamente si parla di una del burdo, aiutatemi, del l'argine, canale del canale Maestro. Faccio radio, ma sono dislessico, insomma, è evidente, lo faccio come terapia. Lo fai dopo cena per questo, insomma, non lo faresti in prima serata. L'argine viene rimesso a posto completamente, veramente io, siccome sono un fruitore di questo argine, per camminare, correre e per andare in bicicletta. Anche perché si è riscoperta la bellezza della Val di Chiana. Famosa negli ultimi anni anche il fatto che addirittura le cicogne sono venute a nidificare lungo questo percorso. Sì, ma poi diciamo che fino ai primi del Novecento il canale Maestro e l'Est era vissuto da foglianesi. Certo. Cioè, a parte che i foglianesi ci andavano a lavare i panni, ma le usavano anche per le scampagnate. Era il nostro mare. Sì, il nostro mare. Da il dopoguerra, 2-3 anni fa, avevamo perso il gusto di vivere il canale Maestro, di vivere i famosi colonnini. Anche su questo potremmo farci addirittura un'intera trasmissione. Io mi ricordo addirittura i colonnini. Io ricordo, e scusate, permettetemi un ricordo personale, addirittura che quando facevo le scuole elementari, secoli fa, ci portavano addirittura al fiume a farci vedere un po' quella che era tutto la flora e la fauna del posto. Ma io a questo punto, Enzo, mi viene in mente che potremmo lanciare anche un appello, siccome l'estensione di Radio F in questo momento è la copre totalmente il sentiero della bonifica. Per chi ci ascolta, che volesse dare il loro contributo anche da paesi limitrofi, per tutto il percorso del sentiero della bonifica, o volessimo fare, non lo so, organizzare degli incontri o delle iniziative, potrebbe essere questo primo momento per... Guarda, ce la stai crossando e Luca non può che prenderla e colpirla di testa, perché fra qualche mese avverrà un evento sul lungo proprio il sentiero della bonifica, ma ahimè... Oh, non volevo anticipare nulla, ma l'ho detto proprio in spontaneità totale. Però ne parliamo tra poco, perché è una cosa importante, ci rilassiamo un attimo, ascoltiamo un bel brano. Ecco, ma le cicogne facevano, durante il periodo di gestazione, andavano su e giù per il canale? Ma che bella città! Ah! Ma che bella città! Edoardo Bennato era il 1974 ed era uscito il lato B dei 45 giri. Salviamo il salvabile, d'altronde il resto in qualche modo faremo. Disse anche il Fosso Ombroni a bonificare la Val di Chiana. Ricordiamo, abbiamo ricordato i modi di ascoltare Radio F, ma anche tutte le interazioni, Facebook, Twitter, ma anche con Piazzalta abbiamo la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, in cui sulla pagina Facebook potrete risentire le puntate già a partire da domani. E sul canale YouTube, caro mio Marci, potranno vedere il tuo pandanto di questa sera, che non è poco per niente, ed è bellissimo perdersi in questo mare, come diceva. Beh, e il colore è quello, effettivamente. E sono le 22.53, abbiamo ancora qualche minuto da spendere con Luca Posani, cose importanti. Assolutamente, presidente della Proloco, che fino adesso non è intervenuto con quel ruolo, perché ci ha raccontato la storia della bonifica della Val di Chiana, ma adesso si trasforma come un Clark Kent, dentro una cabina telefonica e diventa il nostro presidente della Proloco di Foiano. Perché? Che cosa accadrà lungo il sentiero della bonifica e quando? A giugno, con la... noi della Proloco, perciò anche voi, perché ne fate parte anche voi. Senza saperlo, tra l'altro. Chiaro. Siete tesserati, vi è stata venduta la tessera in questa sede. Imposta, mi ricordo. Sto scherzando. No, l'avete presa volontariamente. Sì, sì, sì, ci mancherebbe altro. Quindi noi della Proloco che cosa faremo a giugno? Faremo un trekking sul percorso della bonifica, che finirà con una merenda. E questa è la cosa che più ci dà, stimola. Ma questo dà anche la certezza, Luca, che noi ci saremo. La merenda. No, più che altro serve perché dobbiamo, noi foianesi, e non solo noi foianesi, rivivere e riscoprire il nostro territorio. Quindi tu ci farai da cicerone? Racconterai tu quello che succede? Cioè mentre passeggiamo ci racconterai cose appunto sulla bonifica? Sì, io e si spera anche qualche domanda. Io ero curioso, volevo fare una domanda, che visto che noi ne parliamo, stasera gli abbiamo dedicato una trasmissione, ma effettivamente sono stati fatti di recente anche molti lavori lungo il sentiero della bonifica perché venga sempre più valorizzata. Ora, queste sono iniziative che fa la Proloco di Foiano insieme per il tratto, diciamo, che forse la interessa di più. Ma che tu sappia, Luca, ci sono anche altri paesi che sono toccati dal sentiero della bonifica, che hanno iniziative similari o che, tra virgolette, cercano di valorizzare il loro tratto di competenza con iniziative tipo la nostra? Io non so quali sono gli altri comuni che iniziative svolgano all'interno del sentiero, però lo stanno valorizzando molto, forse anche molto più di noi foianesi, perché è diventato anche un'attrattiva per i turisti. Ci sono turisti che amano fare trekking o amano fare bicicletta, in bike, insomma, i percorsi è diventato un percorso importante. Quindi un'attrattiva anche turistica. Sì, assolutamente. Sì, forse lo utilizzano più gli altri comuni, noi bisogna cercare di valorizzarla ancora di più. Ma io sono sicuro che quella merenda farà la differenza. Infatti, perché le merende come le facciamo noi, gli altri paesi, gli altri comuni non li fanno. Ma quindi sarà, cioè, ci ritroveremo tutti là a piedi, sì. La parcheggeremo da qualche parte che solo Dio sa dove, e faremo qualche chilometro. Qualche chilometro. Io tanto per far nascere l'appetito. E dopo vi forniremo un cestino ben organizzato. Infatti io, Marcello, penso che la cosa migliore sia portare una macchina all'arrivo, andare alla partenza con un'altra macchina, di modo che, perché andata e ritorno non posso garantirla, chiaro, assolutamente. Chiaro. Ovviamente spereremo, ma sarà un tempo bellissimo, avremo più avanti l'occasione di dare la data precisa, perché certo, so che siete in fase ancora di organizzazione, e sicuramente riguarderà il tratto che va di Foiano, esatto. Sì, sì, sì. Ho visto, ti faccio un'altra domanda, magari non sei la persona che devi rispondere, però io te la domando, ci sei te a chi lo domando? Se la so, rispondi. Esatto. Ho visto, per esempio, sul tratto, mi sembra, del comune di Chiusi, dove ci sono proprio delle aree di sosta. Sono previste, che tu sappia, anche nella zona che riguarda il comune di Foiano, sono già presenti oppure no? Ma l'area di sosta... Con panchine proprio, c'è tutto attrezzato. Ancora no, nel nostro no, però dovrebbe fare... Dovrebbero... Nel progetto, se è stato fatto chiuso, si vedrà che sicuramente proseguirà anche tutto il percorso, perché è un... Anche perché il sentiero della bonifica, è, c'è proprio un ente superiore che... gestisce, sovrintende alla gestione, sovrintende, è troppo bella. C'è l'ente sulla bonifica, però questo lavoro del percorso è stato fatto per volere della regione e della provincia, insomma. Delle due province, Arezzo e Siena. Sì. Bene, io direi che io questa sera... Ecco, con questa immagine che io ho in mente in questo momento di una staffetta... Dove io ti passo un panino e tu lo prendi. Un pezzo di porchetta. E che da Arezzo possiamo arrivare fino a Chiusi. Perché il cibo unisce sempre. Esatto. Allora, siamo arrivati in fondo. Ringraziamo Luca Cosani questa Grazie sera. Grazie a voi. Che è stato Ringraziamo con noi, chiaramente anche il Posto Ombroni che ci ha dato l'argomento per questa serata. E soprattutto che mi ha dato possibilità di dormire. Perché io dormirei altrimenti dentro l'acqua. Esatto. Dove abito. Ci dispiace per Leonardo da Vinci. Che non ha vinto il concorso. E diamo l'appuntamento a domani e domani l'altro per gli splendidi programmi di un fantastico weekend su Radio F. Tra l'altro la domenica c'è una domenica sportiva importantissima che tutti gli appassionati della zona possono seguire per quanto riguarda i campionati di promozione ed eccellenza, in più l'esclusiva con l'Arezzo Calcio e poi tutta la settimana fino ad arrivare a venerdì prossimo alle 22 dove, attenzione, avremo una puntata specialissima perché avremo i quattro presidenti dei cantieri del Carnevale di Foiano che post verdetto commenteranno. Tre avranno il coraggio di essere qui e uno invece ci starà ben volentieri a parlare. L'abbiamo già ripetuto un anno fa, non ci sono stati né morti né feriti, perché non riprovare? Grazie ancora Luca Posani, grazie a voi. Grazie a Marcello, grazie a Simone, grazie a tutti, all'ONU. E l'appuntamento è venerdì prossimo alle 22 sempre su Radio F dal 1976. Pi, pi, pi, pi. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone. Une. In studio Luca Posani. Ani. A venerdì prossimo. Ossimo.